12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi parleremo del progetto Giovani e Stage, promosso dalla cooperativa sociale Sumo di Mestre in collaborazione con il servizio Problemi del Lavoro del Comune di Venezia, cooperativa sociale Coges e Informa Giovani di Mestre Venezia. Avremo ospiti Elisa Cappello della cooperativa Sumo e Antonio Boschin della cooperativa Coges, con i quali cercheremo di capire più nel dettaglio il progetto, ma anche che tipo di dispositivi l'amministrazione comunale intende mettere in atto sul tema dell'occupazione giovanile. Il progetto Giovani e Stage prevede la possibilità per 15 giovani di partecipare ad un periodo di stage della durata di 2 mesi, retribuito, presso aziende del territorio. Sicuramente si tratta di un'esperienza molto importante, in quanto spesso è proprio tramite uno stage che si può accedere ad un contratto di lavoro, ma indipendentemente dal risultato finale dell'accesso al mondo del lavoro, si tratta comunque di un'esperienza formativa che completa una formazione teorica, oppure che permette a persone con bassa scolarità di poter apprendere le basi di un lavoro direttamente in azienda. I giovani selezionati dal progetto infatti avranno la possibilità di acquisire competenze professionali specifiche e di avere un'opportunità concreta di misurarsi in un ambiente lavorativo in qualche modo protetto. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Ma per capire di più le finalità di questa proposta e anche in quale contesto si inserisce, diamo ora il benvenuto ad Elisa Cappello della cooperativa Sumo. Ciao Elisa, benvenuta a 12 minuti. Ciao a tutti. Elisa, per prima cosa, in breve, chi è Sumo e di che cosa si occupa? Allora, Sumo è una cooperativa sociale che è nata nel 2004 e ci occupiamo di vari progetti, principalmente nell'ambito delle politiche giovanili, delle marginalità, insomma delle persone che hanno difficoltà e poi abbiamo un altro settore di politiche educative. Lavoriamo principalmente nel territorio del Comune di Venezia. Elisa, il progetto Giovani e Stage da dove nasce? Allora, nasce diciamo da alcuni dati relativi a diciamo alla disoccupazione giovanile e alla necessità di dare opportunità formative ai giovani e quindi diciamo quelli della fascia tra i 16 e i 29 anni che in un certo qual modo devono inserirsi nel mercato del lavoro dopo il diploma o dopo la laurea o comunque insomma dopo il ciclo di studi obbligatori. Quali sono gli obiettivi del progetto e come si articola esattamente? Allora, l'obiettivo è appunto dare delle possibilità di formazione per questo target giovanile, ma anche delle opportunità di conoscenza diciamo del mercato del lavoro, quindi l'inserimento in delle aziende, si spera anche poi con la possibilità insomma di essere inseriti lavorativamente nell'azienda stessa, e si articola appunto con l'attivazione di 15 tirocini per giovani inoccupati o disoccupati diciamo attraverso la collaborazione anche del servizio Informa Giovani e appunto del servizio Informa Lavoro. E l'idea è appunto di attivare dei tirocini che abbiano anche un corrispettivo economico, quindi non diciamo uno sfruttamento, ma nell'ottica anche della riforma che si sta cercando di fare rispetto agli stage, i giovani che parteciperanno a questo progetto vedranno rimborsati questi 2 mesi formativi con 500 euro al mese, in parte finanziati dal progetto e in parte dall'azienda stessa. Ecco, e quindi se un giovane volesse partecipare a questo progetto, cosa deve fare? Allora, diciamo che la prossima settimana inizieremo a pubblicizzare questo progetto attraverso il sito dell'Informa Giovani, quindi su www.veneziagiovani.info metteremo diciamo tutti i contatti per poter insomma candidarsi a questo progetto, sia diciamo per quanto riguarda i giovani che cercano, sia anche le aziende rispetto alle quali noi stiamo già attivando diciamo le collaborazioni. Però se qualche azienda ci stesse ascoltando può contattarci se è disponibile appunto ad ospitare tirocinanti. Perfetto, Elisa, ti ringrazio per essere stata qui con noi a 12 minuti e ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Grazie. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi se scambiano le offese con il bene. succede anche a noi di far la guerra, ambire poi la pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando di Giovani e Stage, il progetto promosso dalla cooperativa Sumo in collaborazione con il Comune di Venezia, Servizio Problemi del Lavoro, Cooperativa Coges e Informa Giovani di Mestre, che darà la possibilità a 15 giovani di fare un'esperienza di tirocinio retribuito in aziende del territorio. Diamo il benvenuto ad Antonio Boschin della cooperativa Coges, con il quale proviamo a capire un po' i dettagli tecnici di uno stage. Antonio, benvenuto a 12 minuti. Buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti. Antonio, all'interno di che contesto si inquadra lo stage? Beh, lo stage, o meglio, dal punto di vista normativo, il tirocinio formativo ha diversi ambiti di applicazione. Esistono i tirocini formativi di natura curriculare o connessi al termine degli studi, che fanno parte di dell'alternanza scuola-lavoro, di quelle possibilità che vengono dati agli studenti solitamente nelle scuole secondarie di poter accedere alle aziende durante un normale ciclo di studi, oppure al termine della scuola secondaria o al termine dell'università la possibilità all'interno, entro un anno dalla fine degli studi, di poter accedere all'interno delle aziende per fare esperienze. E qui stiamo parlando di tirocini prettamente di natura formativa. Poi esistono altri dispositivi di tirocinio che sono l'inserimento e l'inserimento lavorativo, che invece vedono coinvolta una platea più ampia, dai disoccupati, inoccupati, a persone in particolari situazioni di svantaggio. Ecco, il tirocinio quindi a livello normativo, com'è regolato? Come è regolato? Beh, ha avuto una nuova, per quanto riguarda la nostra regione, la regione Veneto, vi è stata una nuova regolamentazione che ormai è circa un anno di età, nel senso che è riferita alla normativa, al decreto di giunta 337 del 2012, che è andata a sostituire la precedente normativa legata alla riforma viaggi al regolamento 142 del 98. Attualmente vi è stata una regolamentazione connessa comunque al decentramento delle competenze a livello regionale legati al lavoro e alla formazione, e la nostra regione ha deciso di inserire all'interno dei tirocini anche tutta una serie di figure, di dare tutta una serie di opportunità, tentando però di regolamentare quello che prima non era regolamentato e che poteva vedere anche tutta una serie di, tra virgolette, abusi a volte rispetto al tirocinio, che mi ha in qualche modo richiesto la ristesura di un nuovo regolamento a cui tutti si dovessero attenere. Rispetto al meccanismo, Antonio, con il quale può essere attivato un tirocinio, brevemente, come funziona? La normativa è abbastanza chiara, esistono vari soggetti che possono in qualche modo essere considerati soggetti promotori di tirocinio. Il primo da sempre è il centro per l'impiego. Qualsiasi centro per l'impiego ha competenza rispetto all'attivazione di tirocini formativi, e quindi se qualsiasi persona volesse in qualche modo entrare in azienda per poter andare a prendere delle competenze specifiche all'interno dell'azienda, può rivolgersi a un centro per l'impiego per richiederne la promozione. Dopodiché, rispetto alla riforma del mercato del lavoro, perlomeno connessa alla Regione Veneto, esistono i servizi, i cosiddetti servizi per l'impiego, i servizi del lavoro, che sono soggetti privati che hanno determinate caratteristiche, sono stati accreditati dalla Regione, e tutti questi soggetti possono promuovere tirocini formativi. Poi esistono degli altri soggetti un po' più specifici, parliamo del SIL, Servizio di Integrazione del Lavoro, solitamente gestito dalle ASL, che si occupa di disabili. Parliamo delle cooperative di tipo A, limitatamente alle persone che sono in carico a queste cooperative, parliamo di soggetti che ad esempio gestiscono comunità terapeutiche, comunità per minori stranieri non accompagnati o minori comunque italiani, soggetti che comunque hanno in carico degli utenti particolari e per questi prevedono dei percorsi di inserimento lavorativo. Quindi sicuramente, insomma, ecco, sono questi soggetti a cui ci si può rivolgere per l'attivazione di un tirocinio. Antonio, io ti ringrazio per essere stato qui con noi 12 minuti e per tutte le informazioni che ci hai dato. Ti ringrazio e vi saluto tutti. In bocca al lupo per il lavoro. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. A proposito quindi di stage, vi segnalo il sito della Regione Veneto, www.regione.veneto.it, dove poter trovare non solo la normativa vigente in materia, ma anche vari approfondimenti tecnici rispetto a questo tipo di esperienza, utili tanto a chi sta cercando la possibilità di intraprendere un percorso di stage che ad un'azienda che si rende disponibile ad accogliere. Vi segnalo poi il sito www.repubblicadegliStagisti.it. La Repubblica degli Stagisti è un giornale online nato per approfondire la tematica dello stage in Italia e dare voce agli stagisti, e c'è anche un'interessante bacheca con gli annunci di stage in Italia e all'estero. La provincia di Venezia, Servizio Stage Tirocini, gestisce una banca dati aziende ed una banca dati tirocinanti, quindi sia le aziende che i lavoratori possono ricevere tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria per avviare uno stage. Il servizio è gratuito sia per i candidati sia per le aziende pubbliche e private che si dichiarano disponibili ad ospitare tirocini. Per avere maggiori informazioni potete visitare il sito portalelavoro.provincia.venezia.it. Infine vi ricordo che per candidarvi al progetto Giovani e Stage potete anche rivolgervi all'Informa Giovani di Mestre Venezia scrivendo all'indirizzo informagiovani@comune.venezia.it o presentandosi di persona in orario di apertura consultabile nel sito veneziagiovane.info. E per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata dedicata alla possibilità di lavorare all'estero alla pari, assolutamente da non perdere. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.